tra l'altro anche con un'opposizione che sembra che non riconosca a noi il diritto di governare e che non ama il paese, che ogni giorno mette in campo un duro scontro nei nostri confronti. Adesso c'è stato Obama che ha vinto, sembra che, se, che sia uno dei loro, diciamo che prendano atto, Obama ha vinto e governerà, loro hanno perso, che ci lasciano governare. Fra 4 anni e mezzo si tireranno le somme e gli italiani, se lo riterranno, daranno a loro la responsabilità di governare. Questo chiuso perché sai che quando si lavora è chiaro che bisogna lavorare anche con un minimo di serenità, non aprire i giornali o vedere le televisioni tutti i giorni. Tra l'altro nelle televisioni, in tutti gli spettacoli di intrattenimento, ci sono attacchi a noi, con tutti questi conduttori appecoronati sulla sinistra. Bene, scusa, ogni tanto quando ci vuole, ci vuole. Io sono anche uno sincero.